maestà. Riverenti come sempre siamo tutti qua. Sire, siamo noi, il poeta, l'assassino, sua santità. Tutti fedeli amici tuoi. Thank you. Solo il popolo non ride, ma lo si sa. Sempre che Nicola non gli va mai bene niente, chissà perché.